Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, oggi vi invito a fare una riflessione sul corpo, su quello che ci dice, su quello che ci nasconde, sui segreti che possiamo svelare. Il nostro corpo, se ci pensate, niente di più familiare, di più intimo, eppure per certi versi così sconosciuto. Lo vediamo, lo tocchiamo, ma sappiamo che contiene messaggi, segreti nascosti nei geni, ma è anche vero che possiamo scoprirne alcuni perché il DNA ora si può leggere. Ma cosa facciamo con queste informazioni? E cosa facciamo poi con un corpo che amiamo, che ci dà gioia e piacere, ci porta nel mondo, ma anche può tradire proprio per uno dei messaggi occulti scritti nei geni? Di questo parliamo oggi e io vi invito a intervenire già sin d'ora a questa riflessione a voce alta per un confronto. 800 24 00 24. Dopo il caso di Angelina Jolie, che come sapete si è sottoposta a una duplice mastectomia preventiva per ridurre il rischio di cancro, anche l'altra metà del cielo ha sperimentato la chirurgia preventiva anticancro. In Inghilterra, un manager di 53 anni con familiarità per tumore alla prostata ha eseguito test genetici e dopo aver scoperto che tra i suoi geni c'era il pericoloso BRCA2 ha deciso di effettuare l'asportazione preventiva di questa ghiandola. Anche questa sarà una scelta che farà discutere, noi ne discutiamo oggi insieme al professor Pier Francesco Bassi, direttore della clinica urologica all'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno ai radioascoltatori e da lei. Professore, questa notizia avrà sicuramente un grande impatto, tanto più che il tumore alla prostata è frequente e in grande crescita. Ma io spero che non abbia invece un grande impatto, perché non ci sono motivi per dare un impatto così importante come apparentemente è stato dato dai giornali. Esatto. Di cosa si tratta? Qual è di fatto il problema? Il problema è semplicemente quello che da più di 7, 8, 10 anni noi sappiamo che ci sono delle anomalie genetiche che identificano un maggior rischio di sviluppare un tumore. Questo BRCA2 è un gene anomalo che aumenta il rischio di sviluppare tumore della mammella, tumore della prostata, tumore dell'ovaio. Quindi questo è l'informazione prima che si deve trasferire. La seconda informazione è quella di quanto è rischioso, quanto è importante avere questa anomalia genetica, perché il discorso si basa su questo. Allora, i medici parlano di rischio relativo. Cos'è in altri termini il rischio relativo in termini pratici? Nel caso specifico della prostata, il paziente che ha questa anomalia genetica ha 8 volte maggior rischio di avere un tumore della prostata, sì. Ma questo non significa che lo avrà necessariamente, ma che nell'ambito della popolazione che presenta questa anomalia genetica è presente una percentuale di tumori che è superiore, 8 volte superiore rispetto a quella della popolazione normale. Questo significa semplicemente aumentato rischio, non certezza, quindi è qui il punto dove si fa il gioco. Poi che cosa succede? Nel caso in oggetto, e questo è importante come messaggio per la popolazione, si evidenzia che il paziente è giovane, che ha una familiarità, cioè che ci sono altri casi di tumore della prostata nella propria famiglia. Allora, anche questo è un fattore, la familiarità è un fattore che aumenta il rischio, ma di fronte ad un rischio aumentato, che cosa fa la medicina? Gioca su quello che conosciamo tutti, sulla diagnosi precoce, sull'attenzione, sulla sorveglianza, chiamiamola come si vuole. Cosa si fa? Nei pazienti che hanno un maggior rischio i controlli sono diversi, sono più frequenti, sono più per certi versi accurati, anche se non è la parola corretta, in maniera tale da poter identificare quella popolazione che lo sta sviluppando, il tumore, prima, in tempo, ed agire di conseguenza. Quindi, professor Bassi, mi scusi, ma test genetici in persone che hanno familiarità con il tumore alla prostata non sono consigliati e non sono fatti generalmente? No, non hanno nessun senso, perché noi urologi da 20 anni sappiamo che chi ha una familiarità per tumore della prostata ha un maggiore rischio di sviluppare il tumore. e quindi già nei confronti di questa popolazione c'è un'attenzione privilegiata che prevede dei controlli che sono completamente diversi rispetto alla popolazione normale. Quindi avere questa informazione dell'anomalia genetica di cui si va parlando non aggiunge nulla, perché noi continuiamo già a seguire questi pazienti in maniera diversa. Quindi rimane valido il valore del PSA? Rimane valido il valore del PSA, rimane valido il valore della visita, e rimane valido il concetto dell'informazione che deve essere trasferita a questi pazienti. Professore, prima di salutarla, quindi un giudizio sulla decisione di farsi asportare la prostata, un suo giudizio è chiaro nei confronti di questo manager, non era necessario? Assolutamente negativa, è una istanza di tipo emozionale, cioè è partita da uno stato di non perfetta comprensione di quello che è il problema del rischio. Quali conseguenze comporta l'asportazione della prostata? Ecco, mi fa piacere che lei mi faccia questa domanda. L'intervento, come la mastectomia nel caso della donna, non è un intervento privo di effetti collaterali. Togliere la prostata significa offrire al paziente un rischio di incontinenza urinaria, un rischio di avere disturbi dell'erezione, ove questo intervento non sia fatto nelle strutture più adeguate, quindi è un intervento che da una parte può in questo paziente aver risolto il problema del rischio oncologico, ma dall'altra parte può avergli offerto dei fastidi non indifferenti. Quindi professore, non è una passeggiata, quindi il suo parere è chiaro e anche della comunità scientifica. Assolutamente. Vogliamo mandare un messaggio agli ascoltatori che in questo momento magari si riconoscono, hanno familiarità per il tumore alla prostata, hanno un valore del PSA da tenere sotto controllo? Il messaggio, l'indicazione è: controllatevi regolarmente? Assolutamente, nei pazienti che hanno, nelle persone che hanno una familiarità per tumore della prostata, ovvero un qualche cugino, zio, anche lontano, anche in Australia, che ha avuto un tumore della prostata, i controlli, invece che cominciarli a 50 anni, si cominciano a 40. Il PSA, che è il grande indicatore, la grande guida che può darci il sospetto della presenza di un tumore della prostata, invece di farlo una volta all'anno, si fa ogni 6 mesi. E una volta all'anno la visita dall'urologo. Con questo non occorrono test genetici. Grazie professor Bassi per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie anche a voi e buon lavoro. E qui in studio con me la dottoressa Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifica di IEO. Buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima Angelina Jolie, ora un manager di fronte al rischio di una possibile malattia, c'è chi è disposto proprio, dottoressa Luini, ad alienare la parte su cui la malattia potrebbe insidiarsi. Sì, ha detto bene il collega che parlava di urologia, a volte la decisione è emozionale, io non sottovaluto mai quanto c'è di emozionale o emotivo, perché in realtà la medicina è sempre un insieme di scienza e di decisione emozionale o emotiva. La stessa notizia può generare due reazioni diverse, parliamo per esempio di un'alterazione genetica. I geni BRCA1 e BRCA2 ce li abbiamo tutti, solo che noi li abbiamo presumibilmente normali. Quando qualcuno nasce con uno di questi geni alterato, allora ha un certo rischio di tumore. Allora qual è l'impatto sulla vita di questa persona? Questo manager in fondo sapeva forse che nel 2013 è uscito uno studio che dice che chi ha il BRCA2 mutato, quando sviluppa il tumore della prostata, lo sviluppa probabilmente mortale. E allora ecco che la decisione emozionale forse diventa magari non condivisibile, io da medico non la condivido. Però dal punto di vista psicologico cosa facciamo noi di fronte a questo? 800 24 00 24, di questo parleremo oggi, dando risposte naturalmente ai vostri dubbi e raccogliendo soprattutto le vostre storie. Sei cresciuta ormai. Sì, e forse è il momento di parlare dei precedenti clinici della tua famiglia. Erin, tua madre, tua zia e tua nonna sono morte tutte per un cancro al seno. Conosco la procedura. Controlli regolari e autopalpazione. Comincerò da quelli, credo. Bene, dovresti anche considerare di fare dei test genetici. Potrebbero evidenziare una specifica mutazione che indica una predisposizione ereditaria a sviluppare il cancro al seno. Potrebbe essere necessaria una mastectomia preventiva e devi cominciare a... Dobbiamo parlarne adesso. Dobbiamo. Adesso il DNA può essere letto come se fosse un lunghissimo papiro coperto di ideogrammi che gli scienziati hanno decodificato. Qualche volta su questo papiro sono scritti anche errori, ideogrammi stonati che possono rompere questo magico equilibrio della vita. Si chiama test genetico, un esame che, lo sappiamo, grazie a un semplice prelievo di sangue, permette ai medici di sapere se questo o quel gene in noi è mutato, cioè ha dentro qualche errore e rischia di farci ammalare. In questi giorni ci sembra che il test genetico sia un esame alla portata di tutti, una cosa che forse dovremmo fare anche se non ci abbiamo mai pensato, un modo per indagare, come dicevamo, i reconditi segreti del nostro corpo. Ma è davvero così? Voi che cosa ne pensate? Dottoressa Luini, che cos'è? Iniziamo dall'ABC, il test genetico di cui tutti parliamo, ma forse senza avere tutte, no, le conoscenze del caso. A cosa serve? Sarebbe meglio farlo? Chi dovrebbe farlo? Il test genetico, per chi lo riceve, è un prelievo del sangue. E questo prelievo del sangue permette di andare a vedere se esistano geni che siano stati già riconosciuti come pericolosi se mutati. Quindi ciascuno di noi potrebbe avere qualche errore qua e là nel DNA, spesso gli errori sono del tutto silenti, quindi non succede niente se ce li abbiamo, però altri invece sono un po' pericolosi o molto pericolosi. Allora, non è che si debba correre a fare il test genetico, non ha senso, anche perché il più delle volte poi l'informazione non ci serve. Quando esista un dubbio di rischio più alto per una certa malattia, che conosce una prevenzione, questo è molto importante, da sottolineare. Esatto, allora sì, si può chiedere di avere il test genetico, ma non è che... Ecco, cosa faccio? Decido di farlo, vado in ospedale, dico sono qui, chiedo al mio medico, dottore, io vorrei farlo perché ho l'ansia. Io certamente chiedo al mio medico, il mio medico mi spiega che per arrivare al test genetico è meglio sottoporsi prima ad alcuni questionari di familiarità con centinaia di domande, ad alcuni colloqui con i medici. Di solito si va nei centri di eccellenza che hanno le unità di genetica e prevenzione. Questi colloqui sono con i medici ma anche con gli psicologi, perché bisogna anche valutare quale impatto possa avere l'accertamento sulla persona, e solo in alcuni casi si arriva al test genetico. 800 24 00 24, mi state scrivendo al 349 238 6666. Leggerò i vostri messaggi nel corso della trasmissione. Come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Pronto? Erin, nello studio della dottoressa Hall. Le ho lasciato tanti messaggi, temevo di avere il numero sbagliato. Ha preso una decisione riguardo il test genetico? Ehi, ragazza nuova, niente telefonate personali, renditi utile e porta questo di là. Azione! Ehi, tutto bene? Non è niente di grave, quella scena la dovrò ripetere almeno 20 volte. Ma cosa ti succede? Potrei avere il gene del cancro e non so se voglio fare il test per scoprirlo. Potrei dovermi operare. Essere pronti a sapere la verità, conoscere così tanto il nostro corpo da ricevere una stima del rischio di ammalarci. Siamo sicuri però di essere tutti pronti a questo? In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Gabriella Pravettoni, docente di psicologia cognitiva all'Università di Milano e direttore dell'unità di psicologia all'OIEO. Buongiorno professoressa, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Cosa succede quando ci imbarchiamo nell'avventura di un test genetico? Succede che per arrivare all'avventura del test genetico, come sottolineava prima la dottoressa Luini, bisogna fare prima altre cose, a fare altri questionari, lavorare sulla familiarità, ma soprattutto non permettere a un paziente che non ha elaborato degli stati d'ansia e che non ha lavorato anche da un punto di vista psicologico sul proprio profilo di personalità, che gli venga presentato un test al quale poi non si sa come dare risposta, perché esistono poi delle componenti emotive, anche proprio di euristiche, di bias che si creano dentro una persona e che possono portare a scelte sbagliate. Quindi la persona certamente va prima aiutata nella scelta. E sostenere una persona appunto prima di un test genetico vuol dire anche accompagnarla poi a fare un percorso di scelta su quello che può fare dopo. Questo viene fatto, dottoressa Luini? Sì, nei maggiori centri di eccellenza italiani, sì. L'approccio medico e psicologico italiano accompagna molto la persona. Questa è una differenza, per esempio, con gli Stati Uniti. Non sto dicendo che negli Stati Uniti non accada, ma è diverso l'approccio. Noi tendiamo molto ad accompagnare e anche a capire chi abbiamo di fronte. La psicologia ci serve ed è fondamentale nel percorso della medicina per comprendere chi abbiamo di fronte e come possiamo parlare con chi abbiamo di fronte. Professoressa Provettoni, dall'esperienza noi abbiamo letto i due casi di Angelina Jolie e di questo manager inglese. Abbiamo notato che ci sono delle persone che, informate del rischio di sviluppare una malattia e che questa malattia si insidiasse in quella parte del corpo, eliminano. Quindi cambia molto anche il rapporto che abbiamo con il nostro corpo. Cambia moltissimo il rapporto che noi abbiamo con il nostro corpo e proprio per questo deve essere iscritto non nel frame, nella cornice potrei avere il cancro, potrei sviluppare il cancro, ma lavorare proprio su quella persona nel sostenerla nella prevenzione e non invece sostenerla in una eventuale mutilazione come abbiamo visto nei due casi che avete citato. Perché questo è un problema da un punto di vista cognitivo, cioè proprio di psicologia cognitiva, che ci pone di fronte a tre scorciatoie cognitive, no? Queste euristiche, per cui le persone che cosa fanno? Si ancorano all'informazione, soprattutto se l'informazione viene data a mezzo stampa da una star, e si fa un'euristica, si applica un'euristica di disponibilità, cioè si dice. A questo punto le persone che hanno questo tipo di mutazione, per evitare di sviluppare un cancro, decidono in un certo modo, no? In questo caso togliendo un organo. E la terza cosa è la rappresentatività proprio di quello che succede, perché non è detto che, per esempio, levarsi, il seno e fare una mastectomia sia poi una soluzione rispetto al cancro, perché, è vero che si individua nei test genetici una probabilità che si sviluppi una certa cosa, ma non è assolutamente detto che non si sviluppi in un'altra direzione, in un altro organo, per esempio. Quindi non è che possiamo sostenere le persone a continuare a fare interventi per togliere qualche cosa, no? Qui è chiarissimo il disagio psicologico e il fatto che le persone non siano contenute nelle loro ansie, no? Proprio nelle rappresentazioni che loro si fanno di una eventuale malattia, perché c'è proprio invece da lavorare al di là della familiarità, che cosa si può fare rispetto alla personalità di quel paziente futuro o di quella persona sana oggi, ma che potrebbe non esserlo domani. Quindi da un punto di vista cognitivo noi dobbiamo sempre stare attenti a rimettere nel frame giusto, no? Nella cornice giusta, il nostro pensiero, cioè la nostra mente, quindi ragionare in un modo diverso. Voi sapete benissimo che a seconda di come noi rappresentiamo la realtà può essere una realtà che ci terrorizza o una realtà che possiamo affrontare appunto accompagnati. Quindi agire sul corpo con l'informazione, con la prevenzione, con i controlli e con il supporto psicologico, perché c'è Sì. il diritto a sapere, ma anche c'è il diritto a non sapere. Sì. Dottoressa Decisamente, Luini. decisamente c'è il diritto a non sapere, soprattutto quando non ci sono soluzioni, oppure quando non sapere significa sottoporsi comunque a controlli in modo coscienzioso, senza però avere la testa costantemente presa dalla malattia. Qui la decisione è: decido di essere sano oppure di essere una persona probabilmente malata? Perché noi stiamo parlando di rischi che riguardano una minoranza della popolazione, ma anche rischi che probabilmente porteranno anche a tante persone a non avere mai la malattia. Quindi stiamo parlando di persone sane. Sane. Professoressa Pravettoni, chiudiamo Esattamente, esattamente questo. Cioè noi con un suo parliamo. commento. Prego. Io punto proprio su questo, che le persone riescano a capire che le notizie che sono state date rispetto appunto al manager che toglie la prostata e ad Angelina Jolie che fa una mastectomia, devono essere iscritte in una dimensione di disagio altra che noi non conosciamo. Non sappiamo e quindi non dobbiamo far sì che ciò che ci viene detto che fanno altri sia valido per Per noi. tu, certo. Ringrazio la professoressa Pravettoni per essere stata con noi. Grazie professoressa. Grazie a voi. Noi continuiamo a parlarne. Voglio solo leggervi, prima di andare ai mercati, un messaggio che mi è arrivato da Laura. Mia mamma e mia zia sono morte per un tumore al seno. Sono consapevole del rischio e forse farò il test, visto che ho quasi 40 anni, ma sono anche convinta che una doppia mastectomia non sia la soluzione, in quanto credo che il tumore possa venire comunque in altre parti del corpo se si ha il gene mutato. L'unico vantaggio nello scoprire un gene modificato dentro di sé è la prevenzione e vivere sano, partendo dall'alimentazione. Io da giovane prendevo la pillola anticoncezionale, di questo parleremo, vorrei chiedere un parere alla dottoressa Luini. Ho dovuto scoprire da sola che aumenta il rischio di cancro al seno. Grazie per l'attenzione. Laura sottolinea una mancanza di informazione, ma noi l'informazione vogliamo dare. La pillola anticoncezionale, dice Laura, può provocare il tumore al seno, ma ci sono fior di studi, dottoressa Luini. La moderna pillola anticoncezionale ha un aumento minimo del rischio, che comunque è ampiamente compensato dalla protezione nei confronti del tumore dell'ovaio. Essere e benessere. E torniamo all'argomento di questi giorni. Il corpo, i segreti, conoscerli può aiutarci? Le scelte sono di alienarci parti del nostro corpo. Siamo partiti da Angelina Jolie, una duplice mastectomia preventiva per scongiurare il rischio del tumore al seno, che, dottoressa Luini, questo significa comunque azzerare il rischio? No. Abbiamo sentito l'esperienza del manager inglese, asportazione della prostata, gli esperti dicono bastano dei controlli, ma lo sappiamo, entrano in gioco altri fattori, sicuramente il fattore psicologico, sì. La paura di avere paura di vivere un po' come un condannato in attesa, no? Di giudizio. Sì. Walter da Pavia, Cristina da Pisa, buongiorno a voi. Walter, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie alle sue ospiti. Volevo fare un ragionamento più generale, sì. Questi casi un po' eclatanti, diciamo. Però questi discorsi, sia per quanto riguarda, che se il mio caso è il caso di prostata, ma occorrerebbe questo discorso farlo in medico di base. Cioè, farlo, scusi, perché la stiamo sentendo al medico di base. Al medico di base, cioè la prevenzione deve arrivare dal medico, non devo essere io a chiedere. Io, il mio esempio è classico, 58 anni, quando avevo 45 anni ho cominciato a chiedere di fare un controllo, una visita alla prostata, TSA, queste cose. E sono riuscito ad ottenerlo da lui 3 anni fa, a 55 anni. E così vale per tutte le altre cose. Io non so se esistono delle prescrizioni che sono contingentate per i medici, quindi non possono prescrivere più di un certo... Però io penso che la prevenzione è sempre meglio che la cura, e costa assolutamente. Costa meno allo Stato, immagino, un esame del PSA piuttosto che un'operazione, quando ormai i dati lo dimostrano. Così vale, ripeto, questo è il mio esempio. E questa la dottoressa Luini, ma i medici, Walter lamenta. Sì, i medici di medicina generale in media sono molto informati e sono le prime persone cui rivolgersi sempre. Diciamo che però la popolazione non può deresponsabilizzarsi nell'informazione. Cioè, se io so che esistono strumenti che possono essermi utili, vado e li chiedo, e il medico di medicina generale di solito mi aiuta assolutamente, anzi forse è il primo a dirmi cosa devo fare, senza che io debba chiedere. Però quando questo non accade, bene, sono una persona adulta, informata, vado, chiedo e mi sottopongo agli esami giusti. Cristina da Pisa, buongiorno, e poi Katia da Modena. Cristina, benvenuta. Grazie. Allora, la mamma è stata operata 2 anni e mezzo fa dall'equipe della dottoressa Roncella a Pisa di un tumore molto aggressivo, e gli hanno asportato anche tutti i linfonodi. Al termine dell'operazione la dottoressa Roncella mi ha parlato del test genetico in maniera molto trasparente, e in maniera molto trasparente ne abbiamo parlato e abbiamo deciso insieme di non farlo per ciò che mi riguarda. Non l'ho voluto fare da un punto di vista proprio emozionale, nel senso abbiamo deciso di percorrere la strada della prevenzione e dei controlli, certo. Dei controlli, esatto, E infatti è emerso, sono emersi su di me una serie di noduli comunque benigni. In accordo anche con lei, perché con le mammografie, con l'ago aspirato, come d'accordo con il suo ospite, dice è inutile andare a anche scatenare una serie di reazioni emotive e certo, poi andare a vivere nell'incubo. Cristina, poi... questa è una scelta, come abbiamo anticipato prima, come raccontavano i nostri esperti, un po' personale, perché sì, entra in gioco qualcosa d'altro. In linea con noi abbiamo Silvia Mari, giornalista, autrice di un libro Testimonianza, Il rischio, storia di una predisposizione genetica al cancro, in cui racconta la sua scelta di sottoporsi all'età di 28 anni a un intervento chirurgico preventivo per la rimozione e la ricostruzione del seno. Ciao Silvia. Buongiorno, ciao. Tu hai scelto, qualcosa di diverso da Cristina. Cosa ti ha spinto a prendere questa decisione? Lo hai fatto tra l'altro a 28 anni. Sì, l'intervento l'ho fatto a 28 anni. Venivo da un percorso di preparazione ovviamente lungo, in cui sono stata accompagnata nella decisione da i diversi medici, psicologi, le diverse figure che mi hanno sostenuto. Ovviamente partivo da un test genetico che aveva evidenziato una mutazione, la mutazione BRCA2, che espone all'alto rischio di sviluppare il cancro del seno e dell'ovaio, e ho fatto una sorveglianza speciale. Ecco, quello che volevo precisare, se posso, collegandomi alla scelta di Cristina, una scelta diversa che esige tutto il rispetto assolutamente. Però c'è una questione da chiarire, che le persone che hanno un test genetico positivo in mano vengono introdotte in un percorso di sorveglianza che non è quello della prevenzione ordinaria che fanno le donne normalmente o le famiglie che hanno una familiarità, perché l'ereditarietà genetica della mutazione predisponente al rischio oncologico è una cosa diversa. Per poter entrare in alcuni protocolli, magari anche di, non so, terapie sperimentali future, io credo che avere in mano una diagnosi genetica, che ha ovviamente un impatto emotivo molto, molto forte, che certo, va affrontato con preparazione, sia comunque un bene. Questo a prescindere che poi si decida per la chirurgia preventiva o per rimanere nella sorveglianza periodica. Essere e benessere. Dottoressa Luini, è molto importante quello che stiamo dicendo, perché ogni persona va valutata a sé. Ci sono donne che non vogliono i controlli che definiscono ossessivi. È vero, chi ha una mutazione genetica BRCA1 o BRCA2 si sottopone poi a controlli che sono molto intensi, molto frequenti, sono controlli tra virgolette speciali. Allora, è vero che la mastectomia non elimina il rischio di tumore a priori, però riduce molto il rischio di tumore al seno. Può essere una scelta legittima e condivisibile in alcune situazioni, e ci sono donne che non vogliono, non hanno voglia ogni 4 o 6 mesi di sottoporsi a controlli intensivi. Questo va ricordato. Silvia, com'è cambiata la tua vita e che effetto ha avuto su di te la storia di Angelina Jolie? Una storia di cui tu praticamente racconti, no? Già nel tuo libro, Il rischio, che tra l'altro ti sei autofinanziato. Ecco. Quindi mandiamo un appello agli editori che possano pubblicarlo, perché è un libro molto interessante, che direi attualissimo. Silvia, com'è cambiata? Dunque, la mia vita è nettamente migliorata, la qualità della mia vita dopo l'intervento, pur essendo stato l'intervento, insomma, una parentesi importante, impegnativa dal punto di vista fisico e psicologico, certamente posso dire che vivo più serena per due ragioni. La prima è che ho recuperato il senso della progettualità, che prima nella sorveglianza avevo completamente compromesso con l'appuntamento semestrale dei controlli, e soprattutto poi perché credo di aver fatto tutto quello che era nelle mie possibilità fare, di aver utilizzato la conoscenza che avevo come un vantaggio e non più come una spada di Damocle. Questo sicuramente posso dirlo con assoluta convinzione. La storia di Angelina e la sua testimonianza io l'ho molto apprezzata, innanzitutto perché è una donna che vive di immagine, che è un sex symbol riconosciuto, facendo outing su una questione così intima e delicata, che in qualche modo sembrerebbe compromettere la femminilità di una donna, ha fatto una scelta di coraggio, soprattutto per il mondo in cui vive, e poi perché ovviamente il libro di Silvia Mari può raggiungere un certo circuito, la voce di una persona così celebre può avere un impatto ancora più forte, quindi lo considero comunque un gesto di coraggio e di utilità per tante donne, sicuramente. Grazie Silvia per essere stata con noi, un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio, grazie a voi. E andiamo a Modena perché ci aspetta Katia. Buongiorno Katia, benvenuta. Buongiorno a voi. Volevo vedere il problema da un altro punto di vista. Grazie. Che trovo interessante, almeno dal punto dal mio punto di vista trovo interessante. Nel senso, ho sempre seguito l'alimentazione con attenzione, essendo madre di due ragazze e comunque stando attenta a quello che mangiamo, e da un poco tempo mi sono occupata anche di alimentazione legata al cancro e ho letto alcuni testi di medici scienziati che si occupano della relazione che c'è tra il cancro e quello che mangiamo. Sì, ricordiamo i progetti, il progetto Diana, il progetto COS2, esatto, di Franco Berrino dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Esatto, infatti ho proprio letto il testo del dottor Berrino e adesso sto leggendo il testo The China Study di due medici statunitensi che hanno fatto uno studio, sì, completo sull'alimentazione. Quindi Katia? Quindi adesso sto convertendo la mia famiglia ormai da un po' a cercare di seguire un'alimentazione più sana dal punto di vista, almeno da quello che sono gli studi attuali dell'alimentazione, quindi riducendo al minimo gli alimenti di origine animale, in particolare le carni rosse. Stiamo cercando di eliminare anche i latticini perché sembra che anche quelli comunque dal punto di vista tumorale non siano... Certo, lei punta sull'alimentazione, un cavallo su cui punta naturalmente anche tutta la ricerca, anche lo IEO, uno stile alimentare, sì, può aiutare, e lo sappiamo, a prevenire il tumore, tanto più che, come dice il professor Veronesi, il 30% dei tumori dipendono da ciò che mangiamo, ma ci sono anche i geni dicono la loro, dottoressa Luini, sì, non vorrei farla troppo semplice, infatti, ma non è così semplice. È verissimo che l'alimentazione, così come lo stile di vita, aiutano a non ammalarsi, o se ci ammaliamo a guarire più in fretta. Però attenzione, perché il messaggio è delicato. Lo stile di vita ci aiuta probabilmente tanto, ma non è l'unica soluzione. Anzi, in caso di mutazione dei geni, stile di vita, quindi alimentazione, non significa sostituire la prevenzione, non significa sostituire i controlli e non significa soprattutto evitare di ammalarsi, purtroppo. Questo va ricordato. Dottoressa Luini, nel suo libro Il male dentro, di cui abbiamo parlato e che invito gli ascoltatori a leggere, perché è un libro veramente che racconta la malattia da un altro punto di vista, è ambientato in un istituto di cura. Lei parla anche di cure alternative, il Reiki, la, sì, pranoterapia. C'è chi dice che mantenere il contatto con il proprio corpo ed esprimere se stessi in pieno riduca lo stress e non faccia malare. Lei cosa ne pensa? Io penso che mettere insieme più cose, più soluzioni, ci faccia avvicinare di più alla cura. Il fatto che io parli di cure integrate, non alternative. Io sono chirurgo, ma sono anche master Reiki, no? Quindi ho voluto scrivere che se mettiamo insieme più cose, mettiamo insieme più attenzioni e soprattutto portiamo la persona a avere contatto con se stessa, contatto con la propria energia, soprattutto se portiamo la persona ad amare se stessa, perché l'amore è la più forte cura, riusciamo ad avere risultati in più. Quindi benissimo tutto, benissimo i controlli, benissimo la chirurgia quando serve. Io sono chirurgo senologo e quindi non potrei, certo, mai parlare, vabbè, male di soluzioni che sono efficaci, benissimo i farmaci, ma anche benissimo la psicologia, per esempio. Che differenza c'è tra una cura ipertecnologica e Reiki con in mezzo la psicologia? In fondo, se mettiamo insieme tutto, noi diamo attenzione alla persona. Non possiamo giudicare Angelina Jolie perché ha comunicato qualcosa che ha fatto, ha scelto ha scelto con coerenza. Non possiamo giudicare chi invece fa dei controlli e non si sottopone a chirurgia. L'importante è che esista un'attenzione a se stessi. Conoscere se stessi spesso allevia lo stress e riduce il rischio di malattia. Ricordo il titolo, come lo state già chiedendo, ne avevamo parlato, Il male dentro, Cairo editore, della dottoressa Luini. Direi che ci siamo confrontati, sì, per così dare voce anche agli ascoltatori, accendere la L'attualità tante volte ci porta ad accendere dei pensieri e l'abbiamo, sì, fatto in compagnia di tanti ospiti che ringraziamo, anche voi per i vostri interventi, Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in redazione. Dottoressa Luini, io la ringrazio. Grazie. Naturalmente potete riascoltare la puntata sul nostro sito. Per oggi è tutto, come sempre io vi aspetto domani. Buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.